Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, buon lunedì. In regia abbiamo Filippa Oreggi oggi, mentre in redazione come sempre Laura Vanossi. Direi che è tempo di andare a sentire i titoli del nostro sommario. Reni, una coppia che lavora per la nostra salute. Alzheimer, novità dalla ricerca. La vita, prendila con filosofia. Attenti a quei due, potremmo sottotitolare così la puntata di oggi, in cui parleremo di una coppia molto importante per la nostra salute, i reni. Una coppia di lavoratori instancabili, ma non per questo invulnerabili. Quindi impariamo a prendercene cura, a proteggerli. Il primo passo è conoscere le situazioni, le condizioni che possono metterli in difficoltà, i segnali che evidenziano la loro sofferenza. Però questo, a dire la verità, è un compito un po' impegnativo, perché per natura i reni tendono a, come si dice, tenere duro, a lamentarsi poco, se non proprio quando la situazione diventa seria e si verifica quello che viene chiamata insufficienza renale. Una condizione però che sino a qualche tempo fa era sinonimo di inevitabile progressione verso la dialisi o il trapianto, e che invece oggi, grazie alle conoscenze scientifiche raggiunte nel campo delle patologie renali, è possibile prevenire o quantomeno rallentare nella sua evoluzione. Quindi iniziamo subito con una buona notizia. Allora, quindi sempre meglio prevenire che curare, e soprattutto oggi abbiamo un grandissimo esperto in linea con noi, il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo e direttore del Dipartimento Trapianti agli Ospedali Riuniti. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a voi. In studio qui con me a tenermi compagnia c'è Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene, ogni mese puntuale viene a trovarmi. Molto volentieri, Nicoletta. Tra l'altro, nel numero in edicola del mensile Mondadori c'è un servizio sulle patologie renali in dedicato, rosa. Sì, ecco, dedicato alle donne, perché noi abbiamo molte lettrici donne. E le donne sono molto... E le donne si preoccupano di più, e a volte magari senza motivo, la classica frase, i reni affaticati, no? Ecco, però devo dire che sono anche quelle che tutelano la famiglia, no, da questo punto di vista, per cui un po' guardano anche i nostri reni. Ecco. Quindi teneteci buone. Sì. E intanto io vi ricordo, se volete intervenire, fatelo sin d'ora chiamando il nostro numero verde 824-0024, i messaggi come sempre al 349-238-6666. Professor Remuzzi, tante volte diciamo il cuore è il motore del nostro organismo. Che cosa possiamo paragonare i reni? Beh, i reni sono quelli che hanno permesso ai mammiferi di lasciare gli oceani e i fiumi e cominciare a vivere sulla Terra. Senza reni, qui sulla Terra non ci sarebbero i filosofi. Professor Remuzzi, quindi organi assolutamente, un organo doppio assolutamente importante. Noi oggi cercheremo di conoscerli a fondo, di individuare quelle che sono le condizioni e le situazioni che li possono mettere in difficoltà. Noi dei reni talvolta conosciamo poco, abbiamo poche e confuse notizie, ma quello che è di dominio pubblico, noi pensiamo, è un organo di filtro. Chi pensa ai reni pensa all'urina. Allora, usiamo temporaneamente questo indicatore per individuare segnali sospetti e poi procederemo con la nostra indagine in modo più approfondito. Professor Remuzzi, che cosa ci può dire l'urina riguardo alla salute dei nostri reni? Sì, uno che pensa al rene pensa che il rene serve per fare l'urina, sì. Il che è vero. Il punto fondamentale è che il rene non è tanto un organo per eliminare, ma è un organo per regolare. Noi siamo fatti per 3/4 di acqua, ma possiamo vivere in una landa deserta o bere 4 litri di acqua o di qualunque altro liquido, di birra per esempio, al giorno, senza che la composizione del volume di liquido in cui sono immerse le nostre cellule, si chiama fluido extracellulare, cambi. E questo dipende dal rene, che ci consente per esempio di conservare l'acqua se manca o di eliminarla se ce n'è troppa. Noi possiamo bere e mangiare quello che vogliamo perché il rene elimina tutto ciò che non ci serve minuto per minuto con una precisione straordinaria. Come faremmo noi a sapere che cosa c'è in quello che mangiamo? Per fortuna il rene si regola da solo. Noi mangiamo di più di quello che ci serve o beviamo di più di quello che ci serve, il rene elimina tutto quello che non è necessario e trattiene quello invece di cui abbiamo bisogno. Per esempio, questo si applica ai sali minerali, al sodio, al potassio, al calcio. Professore Mussi, ma tornando a questo indicatore della nostra urina, tante volte, anche ne parlavamo fuori onda con Alessandro Pellizzari, l'urina scura oppure il numero di menzioni, l'odore, ecco, ci fanno pensare che qualcosa non vada, è corretto? Sì, certo, noi quelli che fanno il dottore del rene sono fortunati, non hanno bisogno, il rene in un certo senso è silente, come avete detto voi. Sì. Non batte, non respira, è anche difficile da visitare, il dottore del rene guarda delle volte più agli esami che non all'ammalato, e quello è importante perché in compenso abbiamo l'urina, e l'urina ci dice un sacco di cose. Per esempio, avete già detto voi, il colore, se un colore è troppo scuro o assomiglia alla lavatura di carne, per esempio, ci potrebbero essere dei globuli rossi. Avete detto l'odore, un odore particolare può suggerire che c'è un'infezione. Noi nell'urina possiamo vedere che ci sono proteine, per esempio albumina, glucosio. L'urina ci dà tantissime informazioni, cellule, cristalli. L'urina ci dà tantissime informazioni su quello che succede al rene, ma non solo, anche su quello che succede all'organismo. Certo, perché i reni tutelano la nostra salute in generale. I reni ci consentono di avere una regolazione perfetta del volume in cui noi siamo immersi. Ricordiamoci che siamo fatti per 3/4 di acqua, e consentono di regolare tutte le sostanze che bagnano le nostre cellule. Se quelle sostanze lì sono modificate anche di pochissimo, per esempio con un po' di potassio in più che circola nel sangue, si ferma il cuore. Il rene ci consente di eliminare e capisce da solo quando abbiamo troppo potassio, per esempio, oppure quando ne abbiamo troppo poco, e allora lo trattiene. Alessandro, volevi intervenire? Sì, volevo chiedere al professore, ma appunto le lettrici quando ci scrivono parlano di affaticamento dei reni, sentono questo peso, il fondo schiena, è un'impressione, è un altro organo, oppure il rene può in realtà dare questi piccoli segnali magari non troppo tardi, ecco? No, quello lì è mal di schiena che viene dalla colonna vertebrale oppure dai muscoli. Il rene non fa male, salvo che uno non abbia calcoli, per esempio, o non abbia un'infezione. Ci sono delle infezioni delle urine che risalgono fino al rene, danno delle situazioni che i medici chiamano pielonefrite, vuol dire che una parte della struttura del rene è sede di un'infezione, di un'infiammazione, allora fa male. Oppure fa male se ci sono calcoli che passano attraverso i tubicini che collegano il rene con la vescica, si chiamano ureteri, e lì si formano questi sassolini. Naturalmente il passaggio di questi sassolini fa molto male perché l'uretere è molto innervato, ma questi sono solo i due casi in cui il rene fa male. Anzi, è vero il contrario, il rene purtroppo non fa male, e uno si accorge di una malattia renale quando è molto tardi, arriva con le gambe gonfie in ospedale, oppure ha il mal di testa, trova la pressione alta, qualche magari delle volte il medico di famiglia, oppure lo si fa direttamente in ospedale, si fa un esame per vedere la funzione dei reni, e delle volte si scopre che il rene ha perso tantissima della sua funzione, e nonostante ciò non ci siamo accorti. Professore, lei ha detto gonfiore, quindi è un sintomo sospetto, il gonfiore alle caviglie e alle gambe. E nelle donne bisogna calcolare che la maggior parte dei gonfiori alle caviglie o alle gambe derivano da un disturbo della circolazione venosa. E poi c'è un edema delle donne che è dovuto a delle alterazioni ormonali che non ha niente a che vedere con la funzione del rene. Però ci sono casi, per fortuna rari, devo calcolare che le donne hanno tanti vantaggi, e l'essere donna protegge da un sacco di cose, in generale è un grande vantaggio, a me pare, e questo vale anche per le malattie del rene. Di malattie del rene si ammalano molto di più gli uomini che le donne, però certamente il gonfiore alle caviglie è un sintomo che suggerisce che si debba fare un esame delle urine, perché quando il rene perde proteine, il rene è fatto per perdere le cose che non ci servono, le proteine invece sono preziose, devono rimanere nel nostro sangue. Ecco, quando il rene perde delle proteine, queste proteine si abbassano nel sangue. L'avere poche proteine nel sangue predispone a fare uscire il liquido dai vasi sanguigni, dalle vene, e quello si accumula in quella parte che i medici chiamano interstizio, e allora quello è il gonfiore. Uno schiaccia con un dito e rimane una piccola fovea, ecco, quella lì è la dimostrazione che probabilmente c'è qualcosa che non va. Possono essere altre le cause del gonfiore, ma certamente se uno si accorge di avere gambe gonfie, occhi gonfi al mattino, è bene fare un esame delle urine che costa pochissimo. E permette al nefrologo, che è il medico che si occupa della salute dei reni, di avere la situazione sotto controllo. E intanto, se volete restare con noi e chiamarci, 824 0024, io direi che questa è una buona occasione per parlare, conoscere le malattie che possono esporre i nostri reni ad un rischio maggiore di ammalarsi. Parleremo di calcoli, delle infezioni delle vie urinarie, sino anche al diabete e al lupus. Restate con noi, 349-238-6666, se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno. E in attesa delle vostre telefonate noi torniamo a parlare di ricerca, che anche in questo caso parla italiano. Infatti sono stati da poco pubblicati su Neurology, che è una rivista scientifica molto prestigiosa, i risultati di uno studio condotto dalla Fondazione Santa Lucia di Roma, che mette l'accento sull'importanza della prevenzione. In modo particolare la ricerca si focalizza sulla malattia di Alzheimer. Noi ci facciamo spiegare tutto dal professor Carlo Caltagirone, che sono contenta in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno. Bentornato. Grazie. Professore di neurologia presso l'Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia. Professor Caltagirone, allora. Allora, è un buono studio quello che abbiamo fatto, e la valutazione dell'EFIR è stata molto positiva, tanto che poi c'è stata una presentazione anche del comitato editoriale della rivista. Si tratta di questo. L'idea che abbiamo avuto è stata quella di studiare non tanti pazienti, quanto dei soggetti normali e di un certo numero molto grosso, numeroso, cioè quasi un paio di centinaia di soggetti normali, differenziati per età, per livello di scolarizzazione e anche per esperienza di vita, e li abbiamo studiati con delle prove, come si dice, di tipo neurocognitivo, cioè carta e matita, no? Valutare la memoria, valutare l'attenzione, valutare altre funzioni cognitive, e poi gli abbiamo proposto, e molti di questi hanno accettato, di fare anche una risonanza, con una risonanza d'alto campo, cioè una risonanza un po' particolare, che ci ha permesso di studiare questo parametro che si chiama diffusività media, che in definitiva è un sistema che valuta la densità cellulare di una certa parte del cervello, della parte che si vuole studiare. Quindi quanto più alta la diffusività, quanto più bassa è la densità di cellule, quindi naturalmente ci si rende conto che all'aumento della diffusività c'è una minore funzionalità del certe strutture cerebrali. E allora abbiamo studiato questi soggetti normali e ci siamo resi conto che per un certo numero di pazienti che erano anziani, perché questi signori che abbiamo esaminato erano sia giovani che anziani, quelli che erano più anziani, cioè oltre i 50 ma anche oltre i 60, oltre i 70, che avevano questa risonanza con dei valori di diffusività piuttosto elevata, cioè minore densità, sì, e loro avevano proprio delle prestazioni cognitive, soprattutto la memoria, piuttosto compromessa. E allora ci siamo chiesti se questo non fosse, come tanti altri dati dei nostri studi, ma degli studi che si fanno un po' ovunque nel mondo, un segno precoce, preliminare, un marker predittivo, come si dice, di questa malattia che fa timore a tutti, cioè la malattia d'Alzheimer. E quindi abbiamo intanto informato la letteratura internazionale di questi risultati, e quello che vogliamo fare è di studiarli nel tempo, proprio questi che hanno queste caratteristiche, perché vorremmo vedere se poi non siamo stati in grado, come ipotizziamo, di aver colto il momento inizialissimo in cui i pazienti normali diventano o cominciano a manifestare dei segni che poi magari a distanza di un decennio, magari di 12 anni, si trasformano in una malattia grave come la malattia d'Alzheimer. Professore, ma individuare precocemente questi segnali anticipatori dell'Alzheimer, come conseguenza, come approccio terapeutico, a che cosa può portare? Cioè, si può, una volta individuato alla persona a rischio, cercare di allentare e allontanare l'età, proprio il momento dell'insorgenza di questa malattia? È proprio questo il nostro obiettivo, cioè l'obiettivo non è certamente quello di lasciarlo come un dato così puramente conoscitivo. Certo. Una volta che fossimo certi, come stiamo ipotizzando con un certo livello di informazione, di certezza, che le cose stanno in questo modo, e allora possiamo mettere in atto e verificare l'efficacia di tutta una serie di interventi che sono naturalmente, inizialmente sono interventi di tipo diciamo igienico generale. Allora il peso e la dieta e l'efficacia di, diciamo, di attività fisiche e di attività di stimolazione cognitiva, e naturalmente l'abbandono di certe abitudini nocive, che sono il dormire poco, il mangiare molto, il fumare, il non fare un po' di attività fisica regolare. E allora tutte queste cose si sa, gli studi di popolazione, che si associano ad una, diciamo, ad una miglior salute generale, e in particolare, come ci ha insegnato oramai una serie di studi epidemiologici, si associano anche ad una, diciamo, un esordio, un'espressione, una manifestazione della malattia di Alzheimer molto più tardiva che nelle persone che invece hanno, che non hanno queste attenzioni. Allora, proprio in questi poi vorremmo, una volta che fossimo certi di questa cosa, provare a intervenire. A intervenire con la discreta, io direi buona probabilità che questi tipi di interventi poi potrebbero avere sul successo. Insomma, siamo nelle vostre mani, professor Caltagirone. Grazie, buona giornata. Grazie, complimenti. Buon anno per tutti. Grazie. Pronto soccorso. Sono due, sono simmetrici, lavorano sodo per assicurare il buon funzionamento del nostro organismo. Torniamo a parlare dei nostri reni, organi indispensabili da cui dipendono molte funzioni vitali e parametri importantissimi. Sono, insomma, professor Remuzzi, un po' i registi della nostra salute. Intanto abbiamo subito una telefonata a Fernando da Viterbo e poi abbiamo Stefano da Firenze. Fernando, buongiorno. Sì, buongiorno, io vorrei fare una richiesta, cioè io ho mi è stata diagnosticata una cisti renale che è della grandezza di 6 centimetri circa. Sì. Vorrei sapere come uno si deve comportare. Certo, grazie Fernando per la sua domanda. Professor Remuzzi, perché quanti si fa? Quanti anni ha Fernando? Fernando, quanti anni ha? Io ho 69 anni. Perché cisti renali se ne formano con l'età, è un fenomeno diffuso, le cisti sono normalmente benigne, non c'è nulla da fare e non ci sono particolari attenzioni da prendere se non controllare periodicamente queste cisti con un'ecografia, in modo che le dimensioni non diventino tali da comportare qualche problema, anche di dolore per esempio. In generale le cisti renali isolate dopo i 60 anni sono una manifestazione relativamente comune che non necessita di particolari interventi. Stefano invece ci chiama da Firenze. Stefano, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, grazie. Io volevo chiedere al professore circa questa cosa. Mio figlio è nato con un solo rene, adesso ha 12 anni e mezzo, 13 anni, finora nessun problema, la crescita è stata regolare e tutto. È un po' più piccolo della media, ma questo può dipendere da molti altri fattori. Più che altro volevo sapere che cosa dobbiamo fare, cioè quali attenzioni, quali analisi, quali controlli periodici, e se ci sono delle implicazioni, insomma, che appunto possono avere luogo per il fatto di avere un solo rene, ecco. Grazie Stefano, la sua domanda è molto chiara. Professor Remuzzi. Si chiama agenesia renale, è un rene solo, c'è il 50% di nefroni rispetto a una persona normale. I nefroni sono l'unità funzionale del rene, ne abbiamo, dicono i libri, 1 milione per ciascun rene, però qualcuno ne ha 200.000, qualcuno ne ha 1.600.000. Sì. Un rene solo di per sé non rappresenta un problema, noi lo sappiamo per i donatori di rene, noi togliamo un rene a tante persone che vogliono donare un rene a un familiare, al figlio, alla moglie per esempio, o al marito, che è molto più frequente. E quello che succede è che le persone con un rene solo continuano ad avere una vita normale per moltissimi anni. Sì. Il rene solo fa il lavoro anche di quello che non c'è mai stato o che è stato tolto. Pian pianino questo rene diventa un pochino più grande. I glomeruli, queste unità funzionali, di cui ne abbiamo 1 milione secondo i libri per ciascun rene, diventano un pochino più grandi, si allargano un pochino. Ecco, va fatto un controllo ogni tanto, della pressione soprattutto, perché per funzionare di più e per filtrare meglio, quello che succede è che certe volte aumenta la pressione del sangue, E allora noi abbiamo dei farmaci che riducono la pressione e proteggono il rene residuo, la parte di rene che è rimasta, dal fare troppo lavoro, perché col troppo lavoro potrebbe deteriorarsi. Quindi nessun problema, il bambino avrà una vita normale, il suo unico rene vicarierà le funzioni di quello che non c'è mai stato, ogni tanto un controllo dell'urina, sempre, che ci dà tante informazioni, diciamo per un bambino una volta ogni 5 anni è più che sufficiente, e la pressione arteriosa dopo i 20 anni. Professore Muzzi, il discorso della pressione vale per tutti, piccoli, grandi, persone che hanno un rene solo ne hanno due, è vero, è un buon indicatore. Tutte le malattie renali tendono a aumentare la pressione arteriosa, e la pressione quando è alta danneggia il rene, soprattutto perché quando c'è una malattia renale la pressione alta si trasmette a questi capillari del glomerulo, a questi filtri, mentre ciascuno di noi ha un sistema di regolazione per cui la pressione alta, quella che misuriamo al braccio, non si trasmette al rene e non lo danneggia. Quando c'è una malattia renale, per esempio il diabete, questo sistema che i medici chiamano di autoregolazione viene meno, e allora la pressione del sangue va a finire uguale com'è, senza un sistema di servofreno, diciamo, dentro al glomerulo, e questo può allargare i pori di questi colini che ci servono per eliminare quello che non vogliamo trattenere, tutte le scorie alimentari, si allargano quei pori lì, passano le proteine e quello fa male. Allora bisogna avere dei farmaci che abbassano la pressione arteriosa. In ogni caso la pressione è un problema sempre per il rene. Alessandro, volevi intervenire con una domanda per il professore? Sì, rilancio un po' anche quello che sta arrivando via SMS, ma è una domanda classica di questo periodo. Professore, siamo nel mezzo delle malattie invernali, no? Ci sono molte persone che stanno prendendo magari l'antibiotico, poi un antinfiammatorio, poi insomma c'è un gruppo abbastanza folto di gente che prende di colpo più di un farmaco. Ecco, questo è un pericolo? Ci sono dei consigli? Prendere più farmaci anche per periodi più lunghi? Mi faccio riferimento anche alle ricadute. Certo. Professor Remuzzi, si rischia? I reni normali sopportano tutto, salvo che uno non abbia il mal di testa. Questa, per esempio, è una malattia renale tipica delle donne. Star bene si è occupato proprio delle donne. Quello che fanno le donne normalmente per via del mal di testa, quelle che non sono ipertese, perché allora il mal di testa ha una ragione, ma le donne soffrono molto di emicrania. Allora una volta prendevano un farmaco che si chiama Sari, le donne lo prendevano 2, 3, 4 volte al giorno. Questo qua è uno che dà delle malattie renali, ha una tossicità molto importante per l'interstizio del rene, e addirittura alcune di queste persone poi finivano in dialisi, bisognava sostituire la funzione danneggiata. Questi sono casi estremi. Normalmente il rene che funziona ce la fa, tollera tutto, però bisogna fare molta attenzione con gli antibiotici per esempio negli anziani delle volte si assume che il rene sia normale e non lo è, e allora il dosaggio degli antibiotici, soprattutto quelli tossici, andrebbe ridotto. E la cosa che avete toccato voi, che è molto importante, è attenzione ad associare tanti farmaci insieme, a prenderli molto frequentemente. Quindi mi raccomando, la febbre è un magnifico sistema per eliminare batteri e virus. Professor Remuzzi, ogni tanto prendere qualcosa per la febbre, ma non esageriamo, perché in generale gli antinfiammatori non steroidei, che sono i farmaci principali per abbattere la febbre, fanno male al rene. Voilà, siamo tornati in linea con noi il professor Remuzzi, qua in studio con me Alessandro Pellizzari, che nel numero in edicola di Star Bene, il mensile di cui è vice caporedattore, ha dedicato proprio un servizio alla salute dei reni, al femminile. Noi ci occupiamo dei reni maschili e femminili. Professor Remuzzi, arrivano molti messaggi e richieste riguardo all'alimentazione e anche alla quantità di acqua da bere per far vivere bene i nostri reni. Ci sono delle precisazioni da fare, o i reni che funzionano si adattano comunque? I reni che funzionano si adattano comunque. Al rene non fa mai bene troppo sale, e non fanno mai bene troppe proteine animali, che non fanno bene male soltanto al rene, ma fanno male in senso generale. Però non c'è per un rene normale ragione di bere tanto. Qualcuno dice beviamo tanto e questo mantiene i reni sani. Non è vero, sono stati fatti tanti studi, non è così. Certo, tenere un rene in una condizione di eccesso di disidratazione, cioè bere troppo poco, questo è sbagliato, e succede nelle persone anziane, ma se uno si regola col senso della sete non ci sono particolari precauzioni da prendere, si può bere poco o tanto e il rene si arrangia da solo. Professor Remuzzi, noi abbiamo parlato di farmaci prima, un messaggio: gli sportivi che fanno uso di aminoacidi, creatina, carnitine, bevande saline per periodi di 2 mesi con pausa rischiano? Ci scrive un ascoltatore. No, questi non rischiano in modo particolare per queste sostanze, salvo che di nuovo non si prendano delle farmaci che sono tossici per il rene in uno sport che comporta relative disidratazioni per certi periodi, certe persone che per esempio sudano tanto, quelli che rischiano erano i militari dell'Iraq per esempio, sì. Perché quelli lì bevevano poco perché... se bevono tanto, urinano tanto e questo è un problema, tutti vestiti come sono, sì. E fanno delle grandi fatiche, c'è molto caldo, lì si disidratano e si tendono a formare calcoli, ma lo sport che facciamo noi e il tipo di sforzo a cui sono sottoposti gli atleti normalmente, se i reni sono sani non comportano problemi, è importante che bevano, ma loro lo sanno benissimo, i ciclisti per esempio sanno perfettamente, si regolano col senso della sete, sanno quello che devono bere, queste sostanze non sono particolarmente tossiche per i reni. Alessandro, prima di darti la parola andrei a Frosinone perché abbiamo Luca che ci aspetta. Luca, buongiorno. Buongiorno, io mi inserisco nel discorso che stavate facendo sullo sport e volevo chiedere una cosa al professore, che saluto per la sua perizia e voi per la vostra trasmissione. Volevo chiedere, siccome io ho avuto dei casi di ematuria, sono un sportivo amatore, però faccio agonismo, ho 43 anni, e ho indagato in tutti i sensi, in tutte le maniere, per vedere se ci fossero problemi di altro genere. Si è concluso con il mio urologo, probabilmente, io chiedo qualche lume in più al professore, che possa essere una ematuria da sforzo. Volevo chiedere qualche informazione in più in merito. Grazie Luca, bella domanda. Professor Remuzzi. Sì, è possibile. Ematuria vuol dire intanto presenza di sangue nelle urine. Grazie. Ematuria da sforzo, quindi sangue nelle urine, è una condizione possibile. Si tratta di vedere come sono questi globuli rossi. Una cosa che il nostro ascoltatore può fare è guardare i globuli rossi. Se sono belli, normali, rotondi come sono, un po' ovali come sono di solito i globuli rossi, allora è molto verosimile la diagnosi del suo urologo. Se fossero globuli rossi un po' danneggiati, tutti frastagliati, vuol dire che vengono dal glomerulo, può essere comunque una condizione benigna, ma va indagata. Quindi i globuli rossi devono essere belli tondi, belli pacerotti. Questo si vedrà al microscopio si vede, certo. Invece noi, Alessandro Pellizzari, giustamente vuole tornare sulle donne e io, certo. Ecco, e io ne sono molto lieta per le ascoltatrici di Radio 24, perché ci sono delle età, delle condizioni, situazioni, sì, un pochino più, direi, a rischio, ma il professor Remuzzi so che mi correggerà. Ale. Sì, volevo parlare un attimo della gravidanza, perché è un periodo in cui una donna che non ha mai avuto problemi ai reni può di colpo averne, vero professore? Beh, quello che succede di nuovo, se i reni sono normali la gravidanza non è un problema. Sì. La gravidanza però può accelerare la progressione di una malattia renale che era preesistente, una malattia per esempio con perdite di proteine, con una funzione renale normale o appena lievemente compromessa, può durante la gravidanza andare incontro a un'accelerazione, quindi bisogna controllare sempre prima dell'inizio della gravidanza l'esame delle urine per vedere che non ci siano problemi. La gravidanza di per sé, in persone che hanno forse una predisposizione genetica, ma non necessariamente una predisposizione genetica, la prima gravidanza soprattutto, può portare a delle complicanze renali. Queste sono complicanze relativamente gravi, si chiamano preeclampsia, di nuovo ci sono gonfiori alle gambe, pressione alta. Durante la gravidanza è molto importante provare la pressione. La pressione in gravidanza si abbassa perché c'è una grande vasodilatazione. Se la pressione non si abbassa e si comincia ad avere un pochino di proteine nelle urine, quella è una condizione per fortuna rara, però bisogna guardarla con grande attenzione, perché per esempio nei paesi poveri la preeclampsia o qualche cosa relativo al rene e alla pressione complica il 10% delle gravidanze, quindi è una condizione, da noi è più rara, ma è una condizione da guardare con attenzione. Poi ci sono le infezioni, naturalmente la presenza del bambino dell'utero comprime le vie escretrici, le vie urinarie, gli ureteri, delle volte anche il bacinetto renale man mano che questo bambino diventa grande e che quindi man mano che aumentano le dimensioni dell'utero, allora ci può essere un po' di stasi di urina, quindi l'urina non defluisce bene normalmente e questo comporta la possibilità di avere un'infezione. Quindi di nuovo controllare l'urina prima della gravidanza, vedere non solo che non ci siano proteine, cellule, cristalli, ma nemmeno batteri, perché in questo caso ci sono una serie di mezzi da mettere in atto per evitare che questo si trasformi in un'infezione che poi magari risale su fino ai reni e dà un interessamento che i dottori chiamano pielonefrite. Darei la parola alle nostre amiche che ci hanno chiamato, Sabrina, Elisa e Titti. Iniziamo da Sabrina, da Palermo. Buongiorno Sabrina, benvenuta. Buongiorno, buongiorno professore. Volevo farle una domanda. Mio padre ha ricevuto un trapianto in data 30 dicembre 2009. Mio padre ha 74 anni, attualmente il REN non ha ripreso la sua funzionalità. I dottori dicono di stare tranquilli perché è un processo normale, perché in base al livello di ischemia che il REN aveva subito, in base all'angiotac che gli hanno fatto, quindi al mezzo di contrasto, è possibile che il REN abbia bisogno di un po' più tempo per riprendersi. Volevo qualche notizia da parte sua perché sono un po' preoccupata. Sabrina, ha fatto bene a chiamarci, 824-0024, professor Remuzzi. Sì. Apriamo il capitolo del trapianto. Sì. Sabrina, sta facendo dialisi? Mio padre sì. Ecco, e quanto tempo è passato dal trapianto? 11 giorni e mezzo. Oggi. Beh, insomma, sì, è molto presto, quindi è molto possibile che questo rene riprenda. Bisogna vedere bene com'era il donatore e quanto è stato il tempo di ischemia. Il tempo di ischemia vuol dire il tempo in cui il rene non è perfuso dal sangue perché è fuori dall'organismo. Delle volte il rene arriva da lontano, si fa il trapianto a Napoli, ma il rene viene da Torino. Ecco, tutto questo tempo, perché il donatore si trovava a Torino. Allora, certo. Tutto questo tempo comporta una certa sofferenza per il rene, il quale però è capace di riformare i tessuti che soffrono. Il rene ha una straordinaria capacità di rigenerare, soprattutto dopo danni acuti, e quindi se i medici le hanno detto di stare tranquilla, stia tranquilla, farà magari un paio di settimane di dialisi, ma quel rene lì dovrebbe riprendere. Io direi, prima di dare la parola a Elisa, Titti, si è aggiunto anche Sergio Dacchieti, il professor Remuzzi darà sicuramente a ciascuno di voi una risposta, un'indicazione. E siamo tornati e abbiamo Elisa. Buongiorno Elisa, benvenuta. Buongiorno, seguo sempre la vostra trasmissione, mi piace tantissimo, è molto culturale. Grazie Elisa, fa bene comunque. Ci racconti allora, che così il professor Remuzzi le risponde. Ho un problema, una ragazza di 18 anni con ricorrenti infezioni alle vie urinarie, sì, prende spesso antibiotici e quindi è diventata anche un po' resistente a molti tipi di antibiotici. Abbiamo fatto diversi controlli, analisi, tutti i medici mi dicono non ha niente. Vorrei sapere se questa ragazza potrà avere una vita normale, se potrà avere... Ecco. Insomma, ecco questo qui. Grazie Elisa, ha fatto bene a chiamarci perché, professor Remuzzi, le infezioni delle vie urinarie sono un disturbo molto comune. Molti messaggi stanno arrivando per dire ma in qualche modo possono poi danneggiare i reni, soprattutto in un caso come quello di Elisa, in cui non si riescono completamente a debellare, quindi ci sono continue recidive con l'utilizzo di farmaci. Sì. Le infezioni nelle vie urinarie sono particolarmente comuni nelle donne. Si tratta di cistiti, sono infezioni della vescica, si manifestano con un bruciore molto importante, un continuo bisogno di urinare. Delle volte le urine contengono anche sangue, il sangue si vede anche a occhio nudo. Sì. E questo è proprio un disturbo che è più frequente nelle bambine e nelle donne. Un episodio di cistite non è un problema. Le cistiti ricorrenti, le infezioni delle vie urinarie ricorrenti, vanno studiate, bisogna sapere da che germe sono sostenute, bisogna sapere se il fatto che queste ricorrano non dipende da certe anomalie anatomiche delle vie escretrici, cioè delle vie attraverso cui il rene elimina l'urina verso la vescica e di quello che c'è dopo la vescica fino all'uretra, cioè finché l'urina esce fuori. Ecco, sì, tutte queste vie vanno studiate bene perché potrebbero esserci delle alterazioni anatomiche. Tutti questi sistemi sono regolati da piccole valvole che devono funzionare molto bene. Ecco, va studiato. Come si fa? Come si fa a studiare, professore? Bisogna trovare una persona che si occupi, un bravo urologo che si prenda cura di questo problema, che stabilisca bene il tipo di germe che sostiene questa infezione, il tipo di antibiotico da utilizzare. Bisogna evitare antibiotici che non sono adatti a combattere quel germe lì particolare, bisogna evitare quelli per cui si è già creata una resistenza. L'utilizzo degli antibiotici è cruciale perché se noi perdiamo delle armi perché le usiamo in modo improprio, poi queste cistiti diventano davvero difficili da eradicare. Quindi non è vero che una cosa ricorrente non è niente. In linea di massima sono cose che si curano bene. Certo, bisogna affidarsi a qualcuno che si occupi molto attentamente di questo problema. Ecco, professore, volevo intervenire proprio su questo, perché mi sembra anche dalle nostre lettrici che queste cistiti vengano un po' banalizzate e quindi liquidate con un antibiotico d'amblè. Ecco, dopo quanto bisogna fare l'urinocoltura, cioè tipizzare il germe e andare a capire sapere esattamente che tipo di germe è. Al secondo giro di antibiotico, al primo, ci può dare un'indicazione in questo senso, anche per valutare quello che sta facendo il medico? Tante volte la cistite si risolve da sola, bevendo per esempio. Una cosa fondamentale è mantenere l'urina diluita, perché in questo modo si diluiscono anche i batteri e quindi l'urina passa, l'infezione passa da sola. Quindi la prima infezione non è un problema. La seconda infezione, se c'è una documentazione, però l'urinocultura va fatta prima di iniziare una terapia antibiotica, quello che normalmente le persone non fanno. Il disturbo, prendono un cosiddetto disinfettante urinario che non serve, oppure prendono l'antibiotico addirittura, dopo diventa tutto complicato. Invece bisogna vedere se c'è un germe, normalmente è un Escherichia coli, perché sono germi che vengono dall'intestino. Sì. L'apparato escretore urinario femminile è molto vicino all'intestino, quello dell'uomo è diverso, per quello che gli uomini si infettano di meno. Per gli uomini c'è una strada più lunga perché l'urina esca all'esterno. Quindi le donne sono molto suscettibili, allora bisogna fare molto bene queste cose qua. La prima infezione non è un problema, ci sono tanti sistemi per evitare che questo succeda. Di questi è fondamentale quello di bere tanto, e poi quando c'è davvero un'infezione con un germe documentato, allora si tratta di prendere l'antibiotico più semplice possibile in rapporto a quel germe lì. Non bisogna incominciare con un antibiotico particolarmente sofisticato, quello che i medici chiamano di seconda, terza, quarta generazione, per uccidere un germe che si uccide facilmente con un antibiotico semplice. Certo. Perché se noi partiamo con un antibiotico di quelli più sofisticati, certamente uccidiamo quel germe lì, ma come si dice, utilizziamo un'arma impropriamente potente rispetto... A volte basta la fionda, non ci vuole il bazooka. Titti, da Milano, buongiorno. Ciao Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. Nicoletta simpaticissima, bravissima. Ma grazie Titti, oggi è la mia giornata, sono arrivata che ero mogia, mi avete tirato su. No, sei sempre molto molto brava, poi bisogna ringraziarvi per questo che fate, perché è utilissimo per noi questo, per tutti. Allora Titti, vediamo se le possiamo essere utili. Io ho questo problema, dunque soffro di cistite spesso. E mi hanno detto, quando ho questa cistite, di bere tanta acqua. Sì, anche il professor Remuzzi ha consigliato la stessa cosa, quindi c'è da fidarsi. Però, c'è una cosa, poi dopo ho fatto un esame, è venuto un attacco al rene, ho fatto un esame e c'ho un calcolo al rene. E mi hanno detto che non si può né operare perché è troppo piccolo, per cui di tenerlo sotto controllo. Adesso mi è venuta una cistite nuovamente, ho fatto degli esami, mi hanno fatto fare appunto gli antibiotici, l'errore che diceva il professore, poi ho fatto l'urinocultura, comunque nell'urinocultura non c'era niente. Però si è riscontrato che le urine sono basiche, cioè non acide, sì, per cui mi possono creare sempre appunto delle infiammazioni. Io volevo sapere cosa posso fare, perché il medico l'unica cosa che mi ha detto è di bere tanto succo di mirtillo. Professor Remuzzi, andiamo di mirtillo, basta l'acqua? Ma il succo di mirtillo è una cosa interessante, lo utilizzano gli orsi, per esempio gli orsi vanno in ritardo, sì. Loro non prendono il succo, prendono proprio le bacche, prendono i mirtilli o certe bacche che assomigliano ai mirtilli. Il mirtillo contiene delle sostanze che sono utili per combattere le infezioni, perché impediscono ai germi di attaccarsi alla parete della vescica e quindi di determinare dei danni, vedi, per essere responsabili. Vedi questi orsi quanto la sanno lunga, però, professor Remuzzi? Con l'urina basica e con germi che ci sono o non ci sono, forse ci sono e non si vedono, lì bisogna capire bene che calcolo è, perché potrebbe essere un calcolo di una sostanza che si chiama struvite. Quei calcoli lì sono dei calcoli associati, dovuti soprattutto a urine infette, e quindi è da studiare questo problema qua, e non esiste un calcolo che non si riesce a eliminare. I calcoli presto o tardi si eliminano o strumentalmente o da soli, e quindi di nuovo qui ci vuole un bravo urologo. Sì, perché potrebbero essere l'infezione a provocare questi calcoli. L'infezione può essere quella che sostiene la formazione di questi calcoli. Calcoli di struvite, vero? Sì, si chiamano. Sì. Abbiamo tempo per andare a Chieti, facciamo un saltino a Chieti a salutare Sergio. Sergio, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Ti do del tu perché sei di casa ormai. Bene. Ti ascolto tutte le mattine. Grazie. Saluto anche il professor Remuzzi. Sì. Salutiamo anche Alessandro Pellizzari, se no sa com'è Sergio. Esatto, così facciamo. Buongiorno. Parzialità. Ecco. Allora, andiamo alla domanda. La mia domanda è questa. Io sono diabetico da 45 anni. Sì. ho 50 anni, quindi mi sono ammalato di diabete di tipo 1 all'età sì. di 5 anni. E la diagnostica allora era quella che era, sì. nel 64, ho iniziato con l'insulina e le insuline allora erano molto grezze, quindi si andava a fare un controllo una volta al mese della glicemia, sì. non c'erano tutti questi ritrovati odierni. Sì. E nel corso di questi anni ho avuto l'emoglobina glicosilata, a volte anche a 8,5. Molto alta, ma io ero inconsapevole perché ero giovane, ero ragazzo, ero fanciullo. Adesso dico questa è la domanda. Dopo 45 anni di diabete, io sono poi, una volta che ho capito la malattia che avevo, sì. l'ho combattuta, ci ho convissuta, e adesso i miei reni funzionano benissimo. Sì. Io non solo faccio la creatinina, ma anche la microalbuminuria. Sì. E ce l'ho a 0,11, quindi mi hanno detto che è perfetta, cioè i miei glomeruli sono perfetti. Però nel corso di tutta questa vita diabetica ho avuto la retinopatia diabetica. Sì. La mia domanda è questa: come mai l'organismo umano si comporta in questa maniera? I capillari, i piccolissimi capillari che stanno nella retina, hanno subito dei danni. E i capillari che stanno all'interno dei glomeruli renali no? Bella domanda, Sergio. Professor Remuzzi. Sì, questa è una domanda straordinaria alla quale noi non abbiamo ancora una risposta. Noi tenderemo a pensare che la presenza di retinopatia si associ anche a un danno ai capillari del glomerulo. Invece i farmaci che proteggono dalla retinopatia normalmente, però invece sì, nella maggior parte dei casi è così. Tanto è vero che quando non vogliamo fare una biopsia, non in un diabetico di tipo primo come in questo caso, ma in un diabetico di tipo secondo, quindi il diabete dell'anziano, dove possono esserci dei problemi a fare una biopsia renale, prendere un pezzettino di rene e guardare com'è, guardiamo la retina per avere un'idea di com'è il rene. In questo caso abbiamo una dissociazione. Questo signore è molto fortunato nella sfortuna del diabete, perché 40 anni di diabete con la retinopatia senza un interessamento del rene è una cosa possibile ma eccezionale, e quindi esiste evidentemente qualcosa che noi non conosciamo ancora che protegge in modo particolare questo rene. Sarei interessato a sapere che farmaci prende, se questo signore ha la pressione alta e prende per caso dei farmaci per la pressione. No, professore Muzzi, io non prendo nessun tipo di farmaco, e non ha la pressione alta. Dell'insulina. E non ha la pressione alta. Ho la pressione arteriosa a volte a 109 la massima, 59-60 la minima, e quanto è alta arrivo a 120 la massima e 75 la minima. Ecco, questa è la ragione per cui il rene è così protetto. Nonostante 40 anni di diabete non c'è stato un aumento della pressione, quindi non si verifica quel fenomeno che abbiamo detto prima. Invece la retina è probabilmente stata danneggiata dallo zucchero, da quei periodi di glicemia alta che si traduce poi in quell'esame di cui il nostro ascoltatore parla, emoglobina glicosilata 8 e 8,5 anche qualche volta è alta, è un indice di zucchero nel sangue che rimane alto per certi periodi della sua vita. Professor Remuzzi, vogliamo chiudere con alcune raccomandazioni? Abbiamo detto sicuramente controllare la pressione e trattare, tenerla sotto controllo nel caso fosse alta, giusto? Certamente, questa è la cosa più importante per diabetici e non diabetici che vogliono proteggere il proprio rene. Bene, abbiamo raccomandato alle donne in gravidanza di controllare anche con un semplice esame delle urine. Quali altre raccomandazioni ci si sente di fare in chiusura di trasmissione, oltre naturalmente una dieta varia ed equilibrata? Bere tanto. Bere soprattutto. Il mirtillo abbiamo scoperto. Il mirtillo degli orsi, non lasciamocelo scappare. Professor Remuzzi? Sì, non trascurare, abbiamo parlato di donne, abbiamo parlato di infezioni. Ecco, non dobbiamo trascurare le infezioni delle vie urinarie delle donne e delle bambine. Quest'idea che infezioni ripetute non importa, l'infezione è una delle tante cose che si curano benissimo, ma bisogna saperlo fare bene perché sennò si possono fare anche dei guai. Mentre per le persone, ma dedicheremo un'intera puntata ai calcoli, che soffrono, hanno avuto coliche renali, questo può essere un campanello di allarme, sarebbero magari persone potenzialmente più a rischio di sviluppare malattie renali? Professor Remuzzi, l'ultima domanda. La presenza di calcoli favorisce le infezioni, abbiamo già sentito quella una struvite che aveva calcoli e infezioni, e la presenza di infezione può determinare l'insorgenza del calcolo. Quindi? Ma la presenza di calcolo è comunque una condizione che fa soffrire il rene. I calcoli non sono quasi mai isolati, quando sono isolati non c'è molto problema, ma di solito i calcoli si formano ripetutamente. possono essere di varie ragioni, di varia natura. Alcuni si curano benissimo, alcuni non si curano affatto o si curano con grande difficoltà. Ci sono calcoli che sono dovuti a malattie genetiche, quindi la puntata sui calcoli potrebbe essere proprio interessante, perché allora diamoci appuntamento tanto col professor Remuzzi, noi ci sentiamo quasi direi tutte le settimane, ma intanto ci diamo appuntamento per una puntatona sui calcoli. Invitiamo anche Alessandro Pellizzari. Professor Remuzzi, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie Alessandro, grazie, grazie per essere con noi. Se grazie volete reni al femminile, la punta- il numero di Star Bene in edicola. Buona giornata a tutti, a domani da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.